假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 踏着音乐的脚步轻舞飞扬，乘着歌声的翅膀遨游音乐的海洋。有线古典音乐广播98.6兆赫，每天10点22点播出。歌舞剧场，爱与心灵的天堂。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月， 请欣赏帕瓦罗蒂1993年在他的家乡意大利摩德纳的大广场举行的《我心中的欢乐》演唱会。意大利女高音演唱家鲁奇亚·福切里加盟，他们演绎了选自歌剧《蝴蝶夫人》、《图兰朵》、《江尼斯基基》、《艺术家的生涯》、《乡村骑士》、《卡门》、《友人弗里兹》、《风流寡妇》、微笑的大地、波基与贝斯、曼农莱斯科、茶花女等著名歌剧中的咏叹调，以及我的太阳、格拉纳达等意大利歌曲。下面请连续欣赏。 Oh, Non piangere più, sei in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso dove c'è mia fanciulla mascolta. Solo al mondo non lo se la lasci riscaldar, cercare che giova, al buio non si trova. Ma per fortuna la notte aspetti, signorina, le dirò con due parole. Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo e come vivo, vivo. In povertà mia lieta, sono da gran signore, prima di l'amore per sogni e per chimere e per castelli in aria. L'anima un milione aria torna le mie entrare con voi pura ed i miei sogni usati e i miei sogni miei tosto si leguare ma il furre torò Parlate voi,

mamma, quel vino è generoso. E certo, oggi troppi bicchier ne ho tracannati. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedite come quel giorno che partì soldato. E poi, mamma, sentite, s'io non tornassi, s'io non tornassi, voi dovrete fare la madre a santa. Suggerito il vino per me, pregate in Dio, per me, pregate in Dio, un bacio, un bacio, un altro bacio. Thank you. Oh! Oh. Come on. perché sei fuori.